Che vedremo tra poco sul mercato, insomma, adesso si iniziano già a vedere serie di prototipi, e questo sistema operativo può sapere tante cose, sapere a chi telefonate, dove, con determinati cellulari anche dove siete fisicamente. Ovvio che tutto ciò vi darà tutta una serie di servizi utili, quindi servizi utili vicini a dove voi siete, perché se siete in viaggio e cercate un albergo non dovrete più fare delle query, delle richieste particolarmente complesse, anzi sarà molto più semplice. Quindi tutte queste cose sono dei semplificatori della vita quotidiana a tutti gli effetti, però lasciano comunque determinati dati in circolazione. Ha aggiunto una serie di altri elementi. Uno è la possibilità di fare delle transazioni economiche attraverso Google con la carta di credito. Quindi magari finite in un sito che vi chiede di pagare con la carta di credito e questo tipo di transazione passa attraverso di loro. Insomma, mancava però il tassello finale, chiamiamolo così. Esattamente, un po' la chiusura del cerchio. Hanno effettivamente la possibilità di poter monitorare qualunque, ma veramente qualunque aspetto della nostra vita digitale. E al di là di questo, le due cose a mio avviso inquietanti: una è la capacità riconosciuta, direi unica al mondo, di trattare delle mole di dati così inquietanti ed enormi in una maniera estremamente efficiente. Cioè, io molto spesso faccio più in fretta a fare una ricerca su Google che cercare all'interno del mio stesso computer, e se io penso che dietro Google ci sono miliardi, miliardi, miliardi di pagine, ogni volta che cerco e mi arriva un risultato in millesimi di secondo, mi stupisco della incredibile bravura che hanno avuto queste persone. Dall'altro punto di vista, se questa mole di dati viene utilizzata in modalità non del tutto etiche, questo comporta un problema estremamente, estremamente importante. E questo problema, e mi spiace di dilungarmi un pochettino, ma è un punto chiave, è che Google è anche un erogatore di pubblicità. Pubblicità molto spesso non è che sia mascherata, però è della pubblicità testuale che non dà fastidio e così via. Faccio un esempio chiave: questa pubblicità può essere anche di natura politica. Allora io mi chiedo, nel momento in cui dietro Google ci fosse qualcuno che non vuole giocare pulito o non ha interesse a giocare pulito, può tranquillamente erogare della pubblicità discriminando delle persone rispetto a delle altre o targettizzandole in maniera particolare. Ecco, questa è una cosa decisamente inquietante dal mio punto di vista. Questo è un tema di cui si parla molto negli Stati Uniti, poco in Italia, troppo poco in Italia. Naturalmente non stiamo dicendo che Google lavori e operi in maniera non etica, anzi tutt'altro, ma il ragionamento vale per il futuro, un potenziale futuro, magari con altre aziende, Massimo. Assolutamente, la mia riflessione non è ovviamente legata a Google. Google è il caso perché in pochi anni, molto meglio di altre società, è riuscita a combinare tutto questo, ma è la stessa preoccupazione che le persone avevano nei confronti di Microsoft. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Quando parliamo di dati, questi sistemi sanno che Enrico Pagliarini è stato su quella pagina, navigato in quel sito, eccetera, eccetera, o sanno che un computer XY o un programma XY ha fatto questa cosa? Allora, sicuramente sanno che un computer XY, e quindi un qualcuno dietro, ha fatto un determinato tipo di azione. Normalmente questo qualcuno dietro si può essere definito con un cookie, i famosi biscotti di cui si parla. Il problema è che il passaggio da un profilo anonimo che ha visto determinati siti, che ha fatto determinate cose, a un profilo non più anonimo, ma Enrico Pagliarini ha fatto una serie di azioni, è un'operazione molto molto facile, molto veloce e potenzialmente fattibile su larga scala. Ad esempio con i servizi di previa registrazione: nel momento in cui Enrico Pagliarini si registra su Gmail e va a vedere la posta di Gmail, ha un profilo che è legato a Enrico Pagliarini e alla sua mailbox, e quindi tutto quello che fa in rete può essere, che viene monitorato sempre da Google, può essere riportato a quel profilo. Bene Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti. Ed era Massimo Fubini, amministratore delegato di Contact Lab. Riparleremo tra poco di browser, di programmi di navigazione, perché è stata presentata in questi giorni la Beta 2, la nuova versione di Internet Explorer numero 8. Ma prima parliamo di Blogfest, come vi ho promesso la settimana scorsa, della festa dei blogger che si è tenuta la scorsa settimana a Riva del Garda. La nostra inviata è Marta Cagnola. 3 giorni di incontri, dibattiti, concerti, feste. Sotto la pioggia torrenziale di Riva del Garda, una blogfest bagnata, blogfest fortunata. Oltre ai dibattiti, i bar camp, la discussione democratica. L'organizzatore Gianluca Neri, macchianera.net. Un formato di dibattito che è molto sociale. Cosa succede? Che uno la mattina arriva con un post-it, si prenota il proprio intervento a un quarto d'ora e può parlare di quel che vuole, basta che abbia cognizione di causa, insomma, che sia esperto dell'argomento. Un camp affollatissimo, l'ADV Camp. Sentiamo Nicola Mattina, blog nicolamattina.it. La DV Camp ovviamente si parla di advertising online, quindi di pubblicità online, dei nuovi modelli di fare pubblicità online. Chi parla? Persone che si occupano per passione dell'argomento, persone che vengono dall'industria, in particolare sicuramente Microsoft, Current TV, persone che stanno sperimentando nuovi modelli di fare advertising, come metafora advertising. Temi più dibattuti, problemi più cocenti? In questo settore il tema oggi più rilevante è l'efficacia della pubblicità. Quando noi ci spostiamo sui social network c'è un problema di capire quali possono essere i nuovi paradigmi di fare advertising sui social network, perché soprattutto la gente sta lì per socializzare, per fare altre attività, non cerca informazioni e quindi la pubblicità diventa un po' intrusiva. Allora in generale c'è, come dire, il tema di come un'azienda possa essere presente commercialmente su un social network facendo pubblicità o facendo cose diverse dalla pubblicità che forse possono essere più sexy per gli utenti, diciamo. C'è stato anche un camp tutto al femminile, il Fashion Camp. Aurora Ghini, ovvero lapupacciasonno.com. Il Fashion Camp è stato organizzato nell'ambito della Blogfest per dare spazio a quella che è un'effettiva esigenza delle donne, che è quella, cioè, di parlare della moda. Il camp assolutamente sono sempre a tema tecnologico, comunque generalista, e in questo caso non è stato né un tema tecnologico né un tema generalista, ma bensì un tema molto femminile. Peraltro Aurora Ghini ha vinto il Macchia Nera Blog Award come miglior fotoblog dell'anno, miglior blog 2008 Beppe Grillo, blogger dell'anno Leonardo, miglior blog di un VIP Voglio Scendere, il blog di Corrias, Gomez e Travaglio. Insomma, tanti premi, e ci si chiede se la festa continuerà, se cioè ci sarà una seconda edizione della Blogfest. Ancora Gianluca Neri. Sì, credo di sì. A me spiace molto un po' per il tempo che è stato inclemente, ma c'ha un vantaggio questa cosa, che uno può fare la seconda edizione e nessuno potrà dire beh era meglio l'anno prima. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, questo è 2024, siete su Radio 24, tra poco riprendiamo, parliamo di un servizio che mette assieme il sistema GPS con la tecnologia radio mobile, quindi la telefonia mobile. Il sistema presentato in questi giorni si chiama UbiSafe, ne parliamo tra poco a 2024. Riprendiamo questa puntata, vi ricordo che 2024 è in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24, seguiteci anche via web sul nostro sito internet www.radio24.it, oppure grazie al servizio podcast, vi ricordo, potete aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Tutte le informazioni sono online, oppure potete scriverci con una domanda e noi cercheremo di rispondervi al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Tra poco ci occuperemo, come dicevo poco fa, di Internet Explorer numero 8, la versione beta 2, quindi avete la possibilità di provare questa novità del mercato dei navigatori. Abbiamo parlato all'inizio della trasmissione di Chrome, la novità lanciata da Google. Il vantaggio è che questi programmi sono gratuiti, quindi uno li può scaricare sul proprio computer e provare. Noi continuiamo a preferire Firefox, ma vale appunto la regola di cui prima: si prova e si decide. Adesso parliamo di un sistema, di un servizio che mette assieme la tecnologia GPS e la telefonia mobile. Stiamo parlando di un servizio italiano che si chiama UbiSafe, lanciato da un'azienda italiana, e stiamo parlando dei servizi più in generale basati sulla localizzazione. Saluto Nicola De Mattia, che è amministratore delegato di UbiEst. Benvenuto 2024. La ringrazio, buongiorno. UbiEst è un'azienda che si occupa dei cosiddetti servizi basati sulla localizzazione, detta, come dicono gli esperti, location-based services. Partiamo proprio da qua per capire di che cosa stiamo parlando. I servizi basati sulla localizzazione presuppongono la capacità di identificare il luogo di ubicazione di un veicolo o di una persona. Diciamo che i più diffusi, e che sicuramente anche la maggior parte del pubblico conosce, sono i servizi legati alla navigazione, quindi in particolare hanno raggiunto una larga diffusione anche in tutte le catene retail di elettronica. Sul mercato delle aziende invece sicuramente la componente più matura è quella dei servizi legati alla localizzazione dei veicoli, in particolare dei veicoli pesanti o dei veicoli commerciali, quindi legati a servizi di logistica. Questo tipo di servizi sta prendendo piede anche sul mercato consumer grazie al lancio sul mercato stesso di molti telefoni cellulari dotati di antenne GPS e quindi con applicazioni legati in particolare alla sicurezza personale e al social networking. Quando parliamo di navigazione parliamo di un servizio, lo abbiamo detto altre volte anche 2024, basato su una tecnologia passiva. Noi abbiamo uno strumento in automobile o comunque anche uno strumento personale, come può essere ad esempio un cellulare di nuova generazione, che riceve i segnali dal sistema GPS, calcola la posizione e sulla base di una mappa ci dice dove siamo. I servizi di cui stiamo parlando stanno cominciando a prendere piede grazie al collegamento ad internet sempre più presente. Quindi possiamo pensare ad un utilizzo del GPS assieme alla telefonia mobile infinito. I servizi sono, immagino, tantissimi. Voi state lanciando, è uscito sul mercato, esce sul mercato in questi giorni, un sistema bar servizio, perché esiste una parte hardware ed esiste anche una parte software, che si chiama UbiSafe. Prende spunto dal nome della vostra azienda, però la parola safe ci richiama alla sicurezza. Di che cosa stiamo parlando? Come giustamente indicato, è un servizio che si basa sulla ricezione del segnale GPS per il posizionamento e poi attraverso una connessione dati mobili, un interscambio di dati tra un apparato che io posso portare addosso o comunque può essere attraverso un'applicazione che può essere installata nel mio telefono cellulare, riesce a comunicare con un server remoto e quindi con diciamo delle componenti di monitoraggio. Il tutto indirizzato alla serenità familiare e alla sicurezza appunto propria e del proprio gruppo familiare. Quindi facciamo un esempio, immaginiamo una situazione in cui i genitori vogliono utilizzare questo servizio per i bambini, oppure gli zii per i nipoti, insomma poi le occasioni sono le più varie. Come si presenta il sistema e come poi viene utilizzato? Il sistema ha essenzialmente tre componenti. La prima è legata alla persona che deve essere localizzata o le cui attività devono essere monitorate, che dovrà avere con sé un dispositivo dotato di antenna GPS. Attraverso una applicazione installata all'interno del suo telefonino dotato di GPS o portando con sé un micro apparato che di piccole dimensioni e del peso di circa 70 grammi che consente di essere localizzato e di trasmettere la propria posizione. Una seconda componente invece è quella legata al monitoraggio e all'implementazione delle regole con cui io monitorerò le altre persone, e questo avviene attraverso una connessione web, così come la conosciamo tutti, e quindi attraverso un sito internet in una parte, in un'area riservata a cui accedo solo io per monitorare il mio gruppo familiare, o attraverso un'altra applicazione installata su un telefono che è in grado di visualizzare le posizioni e ricevere gli allarmi che ricevo dalle persone monitorate. Quindi io posso o stare in casa davanti a un sito internet e su questo sito internet vedo il movimento, poi posso vedere anche altre cose, poi magari ne parliamo, di, che ne so, mio figlio. Quindi so se è a scuola, so se sta andando nel tal posto, eccetera, eccetera, oppure posso addirittura vedere le stesse cose su un telefono e quindi portarmi questi dati e controllare mio figlio in mobilità. Naturalmente il controllo avviene solo se dall'altra parte c'è un consenso, diciamo così. Assolutamente sì, l'applicativo prima dell'installazione rende noto in maniera molto chiara quali sono le attività che consente l'installazione. E poi abbiamo introdotto anche la possibilità di adottare delle politiche selettive nel farsi monitorare o meno, con accettazione o meno della richiesta di posizione. Sicuramente ormai siamo tutti maggiormente in mobilità, quindi monitorare e ricevere gli allarmi non può essere legato a una postazione internet fissa. La vera grande innovazione di questo servizio è il fatto che io posso avere lo stesso tipo di informazioni direttamente sul mio cellulare mentre sto viaggiando o svolgendo qualsiasi attività. Consideriamo che questo è un servizio che può essere indicato anche per localizzare i propri animali domestici. Pensate solo, se io al parco ho perso il cane, è naturale che non debba tornare in ufficio per vedere la posizione in cui è in quel momento, ma possa inseguirlo immediatamente conoscendo la mia posizione, la sua posizione e le direttrici di movimento. Dicevamo che questo è un servizio, un sistema che si basa su due tecnologie: la telefonia mobile, la rete di telefonia mobile e il GPS. Poi naturalmente poi c'è anche un'infrastruttura web che è un'altra parte del sistema, però le due tecnologie fondamentali sono queste. Quindi mi sembra di capire, il sistema riceve i segnali dal sistema GPS, si localizza e poi invia queste informazioni al sito web oppure al telefonino della persona che può controllare. Quali informazioni può, al di là della localizzazione, quindi del posto fisico, quali altre informazioni fornisce il sistema? Ma innanzitutto la velocità, e questo fatto prende una connotazione piuttosto importante in relazione a degli allarmi che possono essere immessi nei setting dell'applicazione. Quindi posso monitorare che mio figlio non ecceda un certo tipo di velocità che io ho prefissato. Inoltre ci sono delle attività, o meglio, possono essere degli allarmi che possono essere settati su dei comportamenti che io considero anomali, basati su posizione, tempo e velocità. Mi spiego meglio facendo un esempio. Io posso immettere un allarme che mi avverte se mio figlio esce da scuola prima delle 4 dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì potrà uscire anche dopo l'una perché è un orario diverso. Viceversa, non scatterà l'allarme né il sabato né la domenica. Lo stesso, appunto, qualsiasi tipo di regola che si basa su questi tre elementi fondamentali: posizione, tempo e velocità. Questa è l'ultima parte di 2024, stiamo parlando di UbiSafe, una bella idea che è stata lanciata da un'azienda italiana, UbiEst. Questa è l'azienda, invece UbiSafe è il servizio, il prodotto per monitorare, per controllare ad esempio i figli che si spostano in automobile, oppure un bambino che è a scuola, o addirittura anche il cane in un parco. Una bella idea che, come dicevo, mette assieme queste due tecnologie, quella GPS per la localizzazione e la telefonia mobile per trasmettere i dati di localizzazione. Sistema, o meglio, sistemi come questo beneficeranno del graduale abbassamento delle tariffe di connessione dati via rete cellulare. Il processo è molto lento, sicuramente gli operatori dovrebbero fare qualche passo in più, ma lentamente stiamo arrivando a soluzioni interessanti. La prossima settimana parleremo di un prodotto che verrà lanciato a breve in Italia che abbasserà un po' questi prezzi. È con noi Nicola De Mattia, che è l'amministratore delegato di UbiEst. De Mattia, questo è un servizio che voi vendete su abbonamento. Parliamo quindi anche di prezzi. È un servizio che viene venduto su abbonamento. Per quanto riguarda l'acquisto del mini localizzatore, sicuramente abbiamo immesso una SIM all'interno che quindi ricomprende il traffico generato. Ovviamente per quanto riguarda invece il servizio fruito dal proprio telefono cellulare, l'utente si deve adeguare alle politiche del proprio gestore e al piano tariffario sottoscritto. Possiamo dare un'idea dei prezzi? Beh, il localizzatore con il servizio incluso e il traffico, tutto il traffico dati incluso per un anno, viene 199 euro. Negli anni seguenti ovviamente il costo dell'apparato è già stato ammortizzato l'anno prima. Per quanto riguarda invece i canoni annuali per il servizio su telefono cellulare, si viaggia sui 69 euro e il servizio web invece è sempre incluso nei primi. De Mattia, lo dicevo poco fa, ma vorrei fare anche una domanda su questo problema, chiamiamolo così. I gestori di telefonia mobile sono un po' lenti nell'offrire o comunque nell'abbassare le tariffe di connessione dati. Immagino che condividiate questa opinione. Sicuramente questo è uno dei limiti che al momento non fa decollare nella maniera che ci attendiamo questo tipo di mercato. Però stiamo vedendo una dinamica da parte dei player del settore che va sicuramente in questa direzione. Riteniamo che in un tempo non lungo si arriverà anche a questo tipo di tariffazione. È vero che comunque l'utente al momento è ancora poco informato sui costi del traffico dati e in molti casi è un po' spaventato da ricevere brutte sorprese a posteriori. Bene, grazie a Nicola De Mattia per essere stato con noi. Buon lavoro, sicuramente le idee in questo settore non mancano. Immagino, insomma, che nei prossimi mesi, nei prossimi anni vedremo sicuramente cose particolarmente interessanti. Lo speriamo, lavoriamo per questo. A presto. E adesso le idee che arrivano invece da una grande azienda internazionale, forse l'azienda più conosciuta al mondo quando parliamo di tecnologia o di computer, le idee che arrivano da Microsoft, che ha recentemente lanciato e rilasciato anche per il mercato italiano, quindi in lingua italiana, la nuova versione, la beta 2 di Internet Explorer numero 8. Molte novità, un sistema che si rinnova, come sapete c'è una battaglia accesa sul mercato dei programmi di navigazione, anche se Microsoft detiene ampiamente la maggior parte del mercato con oltre l'80% in tutto il mondo. Fabrizio Albergati è responsabile della divisione Windows per Microsoft in Italia, quindi naturalmente anche di Internet Explorer. Benvenuto, meglio bentornato a 2024. Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Stiamo parlando della versione, della beta 2, come si dice, e spesso, sempre più spesso, i programmi sono sempre in versione beta perché l'uscita dei programmi è sempre più accelerata e quindi spesso utilizziamo delle versioni beta. Comunque voi siete arrivati a questo step, diciamo agli ascoltatori quali sono le novità di un programma che 8 su 10 sono abituati ad utilizzare mentre vanno su internet. La beta è non solo un modo per distribuire il prodotto un po' prima, ma è anche un modo per avere il giusto feedback dagli utenti, sia per le cose che vanno, che piacciono, che per quelle che non piacciono e non funzionano. Internet Explorer porta tante novità nel mondo della sicurezza, della privacy e dell'utilizzo. L'obiettivo numero zero è stato quello di rendere più veloce non tanto il caricamento di una pagina, quanto il passaggio dal momento in cui accendo il browser al momento in cui ho realizzato quello che volevo. Ti do un esempio molto semplice. Ho ricevuto un sms da un amico e diciamo ci vediamo al ristorante l'altra volta. Mi ricordo che si chiamava i tre piedi, non mi ricordo. Vado nella mia parte dell'history, oggi è un disastro trovare in history qualcosa, digito solo trep, trovo ovviamente tutte le cose che contengono Trepiede, troverò la mia pagina web, sono arrivato su quella pagina, vedo l'indirizzo. Oggi dovrei tagliare l'indirizzo, copiarlo su un altro tab, aprire dai miei favorite le mappe, bla bla bla bla bla. Qui invece avrò una freccettina che una volta che ho evidenziato l'indirizzo mi permette di utilizzare un acceleratore e questo acceleratore non fa altro che posizionandomi su Live Map e dimostrarmi la mappa con l'indirizzo. Quindi in un solo passaggio sono già arrivato alla soluzione finale. Il tutto tra le altre cose con e estensioni simpatiche. Sto cercando nel search la copertina del disco che mi interessa. Non lo faccio semplicemente con un testo, lo faccio con una ricerca che viene definita semantica, cioè inizio a scrivere e troverò i suggerimenti, per esempio Pink Floyd. Se io scrivo Pink F, inizierò a vedere i vari siti che mi propongono i Pink Floyd. Se scelgo di usare Amazon come motore di ricerca, avrò già le copertine dei dischi, mi farà, sarà semplicemente un click sulla copertina che mi porterà in quella pagina dove potrò comprare il disco che mi interessa. Senti, voi siete, immagino come del resto tutte le aziende che hanno a che fare anche con il web, particolarmente interessati ai servizi nuovi che vengono erogati tramite internet e quindi che vengono utilizzati poi con il navigatore. Oggi dal vostro punto di vista verso cosa ci stiamo spostando? Naturalmente la navigazione classica, quella delle pagine statiche di un quotidiano, di un sito internet dove vado, di un blog eccetera eccetera, quella rimane, la diamo per scontata. Che cosa sta succedendo? Qual è l'evoluzione? Allora, nell'ultimo anno quello che è successo in maniera veramente dirompente è l'esplosione del social networking, l'esplosione del video, quindi tutta la componente video attraverso internet, e l'instant messaging come fenomeno veramente di grandissima importanza virale, non solo poi di utilizzo. Queste sono aree nelle quali il browser e con le quali il browser deve convivere, deve integrare. Infatti è tutto quello che è l'integrazione con il web 2.0. Ho una pagina, voglio trasformarla in un mio blog, voglio poterla ricommentare, voglio riuscire a trasmetterla attraverso un instant messenger, magari usando delle pagine condivise o delle aree condivise di siti privati. Quindi tutta questa serie di attività devono essere gestite partendo dal browser ed estendendosi poi verso appunto i contenuti. Oltre a questo c'è un altro fenomeno molto importante, che è quello della gestione dei contenuti che si aggiornano in continuazione. Ti faccio un esempio, un'asta di eBay. Una delle funzionalità più innovative di Internet Explorer nella sua versione 8 si chiama Web Slice, cioè si chiamano Web Slice, fette di web. Io posso andare su eBay, seleziono l'oggetto, l'asta che mi interessa e la salvo in un tab che è sempre attivo, che cambia colore quando qualcosa su quella pagina succede, su quella fetta di pagina succede, e un semplice clic su quel tab mi apre una finestra che mi mostra l'andamento dell'asta. Queste cose che sono a metà strada tra la navigazione classica, l'interazione, la parte di e-commerce, sono sicuramente uno dei fenomeni che vediamo di grande spicco. Senti, perché c'è così tanta attenzione, naturalmente anche questo riguarda anche voi, verso i programmi di navigazione sul web, che sono programmi gratuiti ma sui quali insomma gira molto, c'è molto business. Ma proprio per quello che dicevamo prima e che dicevi prima anche tu, cioè il browser è una porta di accesso a dei servizi. Se questa porta non è in grado di fare fruire i servizi nel modo in cui una software house li pensa, questa software house probabilmente vorrà realizzarsi un browser completamente integrato con i suoi servizi. Bene, grazie a Fabrizio Albergati per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie. Ed era Fabrizio Albergati, responsabile della divisione Windows di Microsoft e quindi responsabile anche dei prodotti collegati a Internet Explorer, arrivato alla versione numero 8. Come dicevo poco fa, questi prodotti sono prodotti, programmi gratuiti, quindi il bello è poterli provare senza dover pagare nulla. E allora vi invitiamo a scaricare anche questo programma per rendervi conto direttamente delle novità. È tutto per questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre il sabato, tra le 15.30 e le 16.30. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con la nostra redazione, se volete anche suggerire temi per le prossime puntate. 2024, scritto in cifra, 2024 e radio24.it. Sul nostro sito internet trovate tutte le informazioni per riascoltarci online e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per aggiornare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. È tutto, grazie anche a Luigi Borghi in redazione. 2024 vi aspetta la prossima settimana nel pomeriggio del sabato di Radio 24. You are disconnected. Ci fermiamo per un minuto, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it.